Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdalu salawatullahi alayhi wa salam. Questionario del Fardul Ain. Nozioni essenziali riguardo agli articoli di fede del credo islamico. Cosa significa articolo di fede? Articolo di fede significa punto essenziale di una dottrina religiosa. Quanti sono gli articoli di fede del credo islamico? Gli articoli di fede del credo islamico, cioè i punti essenziali della dottrina religiosa dell'Islam, sono 6. Quali sono gli articoli di fede del credo islamico? Gli articoli di fede del credo islamico sono: credere in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi inviati, nella vita futura e nella provenienza del bene e del male dal decreto divino. Chi è Allah? Allah, l'Altissimo, è il creatore di tutto ciò che esiste, cioè dell'uomo e di tutto ciò che uomo non è nell'universo visibile e invisibile. Chi ha dato all'uomo questa informazione su Allah? È stato Allah stesso, l'Altissimo, a dare all'uomo le informazioni su se stesso per mezzo della rivelazione profetica. Quali sono le informazioni che Allah ha dato su se stesso? Allah l'Altissimo ha informato l'uomo di essere il creatore di tutto ciò che esiste, uno, unico e unipersonale, di essere lui l'autore delle leggi che governano l'esistenza di tutto ciò che esiste nel creato, di essere lui l'onnipotente, di essere lui l'onnisciente, di essere lui l'onniaudiente, di essere lui l'onniveggente, di essere lui l'onnipresente e l'onniagente. Cosa significa che Allah è unico? Significa che la qualità divina, cioè il possesso del potere di produrre dal nulla, di governare con leggi il creato, di avere dominio su tutto ciò che esiste, di abbracciare con la sua conoscenza ogni realtà, di udire e di vedere ogni cosa, manifesta o occulta che sia, ogni pensiero, e di essere presente dovunque e in ogni luogo, appartiene solamente a lui, il quale quindi non la condivide con altri, ha nessun titolo né come condivinità coeterna né come condivinità generata. Quali sono le conseguenze della consapevolezza che Allah è uno, unico e unipersonale? Che in quanto creatore Allah è l'unico che deve essere adorato, in quanto legislatore dell'universo è l'unico che deve essere obbedito, in quanto onnipotente è l'unico che deve essere invocato in soccorso, in quanto l'unico onnisciente è l'unico alle cui informazioni deve essere prestata fede di verità assoluta, in quanto onniaudiente, onniveggente e onnipresente, l'obbedienza dovutagli deve essere osservata con il massimo sforzo verso la perfezione. Cosa significa credere negli angeli? Significa credere senza alcun dubbio alla esistenza di realtà personali invisibili della cui esistenza è Allah, l'Altissimo, che ha informato l'uomo per mezzo della rivelazione. Queste creature sono gli angeli che Allah ha creato dalla luce. Per mezzo degli angeli Allah, che pure è l'Onnipotente, governa ogni realtà dell'universo. Gli angeli sono ministri di Allah, l'Altissimo, che eseguono tutto ciò che viene loro ordinato da Allah. Conosci qualche funzione degli angeli? Ci sono gli angeli che portano il decreto divino a ogni cosa nella notte del destino, quelli che portano il decreto divino al 120° giorno dal concepimento della creatura umana, gli angeli che accolgono l'anima al momento della morte, gli angeli che scrivono le azioni dell'uomo, gli angeli che aiutano i credenti e pregano per loro, gli angeli che lodano e adorano Allah. Conosci i nomi di angeli? L'angelo che porta la rivelazione si chiama Gibril, insieme a lui è menzionato nel Corano Michel, l'angelo che suonerà la tromba della fine del mondo e della resurrezione si chiama Israfil, gli angeli della morte sono Nakir e Munkar, ci sono poi gli angeli custodi del fuoco, Azzabaniya, gli angeli custodi delle porte dell'inferno, gli angeli scrivano, Al-Katibun, gli angeli portatori del trono di Allah, in numero di 8. Che cosa comporta il fatto che gli angeli siano creature? La condizione degli angeli, in quanto creature, è quella di servire Allah l'Altissimo, e ciò comporta che a loro non deve essere tributata nessuna forma di culto, poiché ogni culto è dovuto solo ed esclusivamente ad Allah l'Altissimo. Perché deve essere chiara questa idea riguardo agli angeli? Perché l'aver ignorato o dimenticato queste informazioni provenienti da Allah l'Altissimo ha portato al culto degli angeli o angelolatria, e l'angelolatria è una forma politeistica di aberrazione teologica, in quanto gli angeli vengono riconosciuti poteri che essi non hanno e che appartengono solo ad Allah. Oltre agli angeli, ci sono altre creature invisibili? Sì, lo sappiamo perché è Allah che ci ha dato notizie della loro esistenza. Si tratta dei jinn, creature la cui esistenza è stata prodotta dal fuoco senza fumo. Ci sono dei jinn buoni o demoni, i jinn cattivi, demoni. I jinn hanno come loro esponente massimo il diavolo, che nel Corano viene chiamato con il nome di Iblis e di Shaitan. È essenziale ai fini della salvezza dal fuoco essere a conoscenza di ciò e di credere all'esistenza di essi. Un capitolo del sublime Corano è intitolato La Sura dei Jinn. Cosa significa credere ai libri? Credere ai libri significa che la rivelazione divina, cioè la dottrina del mondo e il codice di vita dell'uomo provenienti da Allah l'Altissimo, ha preso forma in scritture contenute in libri, dei quali vengono forniti i nomi da parte di Allah l'Altissimo nel sublime Corano, che è l'ultimo di essi e che è la materializzazione visiva della parola di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, nelle lettere dell'alfabeto arabo e acustica nei suoni della lingua araba. Quali sono i nomi dei libri ricordati da Allah l'Altissimo nel sublime Corano? 1. As-Suhuf, di cui sono state perdute le tracce e di cui resta qualche traccia nel sublime Corano. At-Tawrah, il testo attuale della quale è diverso dal testo di rivelazione divino originario. Az-Zubur, il nome coranico dei salmi rivelati a Daud, su lui la pace, dei quali il testo odierno è anch'esso diverso dall'originale divino. Al-Injil, il nome coranico del Vangelo, del quale il testo originario è andato perduto. Cos'è il sublime Corano? Il sublime Corano è la parola stessa di Allah, rifulga lo splendore della sua luce, rivelata al profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, per mezzo dell'angelo Gibril, su lui la pace. È un messaggio di affermazione dell'unità, unicità e unipersonalità di Allah l'Altissimo, contenente le verità fondamentali, il credere nelle quali è l'unica via di salvezza dell'uomo dal fuoco dell'inferno e contenente le regole di vita da seguire per andare in paradiso, non senza l'intervento attivo della misericordia di Allah, l'Altissimo. Cosa significa credere agli inviati? Innanzitutto, con la parola inviati si intendono i profeti e gli apostoli di Allah, su loro la pace. Essi furono uomini che hanno ricevuto da Allah l'Altissimo l'incarico di portare il suo messaggio al loro popolo. Per accreditarli presso i loro popoli come suoi messaggeri, Allah ha compiuto dei miracoli per mezzo di loro. Il messaggio divino portato da ogni inviato ha avuto come scopo l'Islam, cioè l'obbedienza dei destinatari del messaggio ad Allah l'Altissimo che lo aveva mandato e l'imitazione del messaggero nella pratica del messaggio, prendendo il messaggero come modello di comportamento e maestro di vita. Allah l'Altissimo, per mezzo di alcuni inviati, ha fatto pervenire agli uomini i suoi libri. Chi sono gli inviati di Allah l'Altissimo per mezzo dei quali ha fatto pervenire agli uomini i suoi libri? sono il profeta Ibrahim, portatore di Asuhuf, il profeta Mosè, portatore di At-Taurah, il profeta Davide, portatore di Az-Zubur, il profeta Gesù, il Messia, figlio di Maria, portatore di Al-Injil, e infine il profeta Muhammad, portatore del sublime Corano, su tutti loro la pace e la benedizione di Allah l'Altissimo. Conosci i nomi di altri messaggeri? Altri messaggeri sono Adamo, il primo messaggero di Allah, Noè, il profeta dell'arca e del diluvio, Ibrahim, Abramo, l'amico intimo di Allah, costruttore della nobile Kaaba alla Mecca, Ismail, capostipite degli arabi e collaboratore del padre nella costruzione della nobile Kaaba, Isacco, figlio di Abramo e padre di Giacobbe, capostipite della casa di Israele, Aronne, il fratello di Mosè, Giona, quello del pesce, Zaccaria, il tutore di Maria, madre di Gesù e padre di Yahya. Yahya, altri profeti nominati nel sublime Corano sono Eliseo, Elia, Zulkifl, Shuaib, Hud, Saleh, Sulaiman, Idris. Questi sono tra quelli nominati da Allah nel sublime Corano, ma ve ne sono moltissimi altri di cui non è stato menzionato il nome. Ogni popolo ha avuto il suo inviato o il suo profeta. Qual è la differenza tra tutti i profeti e gli inviati prima di Muhammad e Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria? La differenza è che la missione di ogni inviato e o profeta precedente a Muhammad, che Allah li benedica e li abbia in gloria, aveva per destinatari gli uomini del popolo a cui apparteneva, mentre la missione del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ha avuto per destinatari tutti gli uomini fino alla fine del mondo e in ogni luogo. Cosa significa credere nella vita futura? Credere nella vita futura significa avere la certezza, sulla base della rivelazione divina, che tutte le creature umane risorgeranno dopo la fine del mondo per ordine di Allah l'Altissimo. Saranno sottoposte a giudizio individuale, che potrà avere un buon esito o un cattivo esito, a seconda della linea di condotta nella vita terrena, e che riceveranno in premio il paradiso se saranno stati trovati buoni e il castigo dell'inferno se saranno trovati cattivi. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è il luogo nel quale i timorati di Allah dimoreranno come premio per la loro obbedienza, in giardini di delizie sotto i cui alberi scorrono fiumi, in gioie e beatitudini paradisiache indescrivibili per l'eternità. Cos'è l'inferno? L'inferno è il luogo nel quale i ribelli alla legge di Allah dimoreranno come castigo per la loro disobbedienza, nei tormenti, nelle pene e nei supplizi dei diversi fuochi e delle diverse fiamme del rogo infernale e per l'eternità. Cosa significa credere nel decreto divino? Credere nel decreto divino significa avere la certezza che tutti gli avvenimenti dell'esistenza sono avveramenti della volontà di Allah l'Altissimo, che ha decretato il loro verificarsi sia in quelli che vengono percepiti come bene, sia quelli che vengono percepiti come male. Nulla avviene per caso, nulla avviene per una cattiva stella, ma tutto avviene per decreto divino che promana dalla volontà di Allah l'Altissimo, come dice il proverbio italiano: non si muove foglia che Allah non voglia. Chi crede fermamente nel decreto divino non cade vittima della superstizione che attribuisce effetti benefici o malefici all'attività di creature, che attribuisce effetti benefici o malefici all'attività di creature equipara ad Allah queste creature, trasgredendo così il divieto di associazione ad Allah di persone o cose. Che cos'è la fede? È la ferma credenza sulla base dell'autorità incontrastabile di Allah, l'Altissimo, della corrispondenza alla realtà oggettiva di tutto ciò che Egli, l'Altissimo, ha rivelato, cioè della verità oggettiva, in quanto testimoniata dallo stesso creatore della realtà riguardo alla realtà creata e della verità oggettiva riguardo alla realtà divina e a quella umana. La verità oggettiva sulla natura divina non può venire da altri che Allah l'Altissimo, e la verità oggettiva sulla condizione umana, la condizione di creatura, non può venire che dallo stesso creatore dell'uomo, cioè dallo stesso Allah. Chi è Gesù? Gesù è il nome latinizzato del profeta Aesa, il Messia figlio di Maria. Aesa, il Messia figlio di Maria, su lui la pace è: 1. Una creatura umana, nato da un miracoloso concepimento virginale, avvenuto nel grembo di Maria, figlia di Imran, discendente di Aronne, ad opera di una parola di Allah, la parola Kun, che significa esisti. 2. È un segno dell'onnipotenza di Allah, che crea come e quando vuole, semplicemente ordinando l'esistenza di ciò che egli vuole. 3. È un servo e un apostolo di Allah. 4. Un inviato nazionale alla casa dei figli di Israele. Egli, il Messia Isa, figlio di Maria, è stato accreditato da Allah presso i figli di Israele con dei miracoli: guarigioni di ciechi, di lebbrosi, resurrezione di morti, da lui compiuti, ma l'autore reale dei quali è stato lo stesso Allah. Egli, Isa, il Messia, figlio di Maria, ha ricevuto la rivelazione divina di un libro, il cui nome è Al-Injil, il Vangelo originario, ma del quale non possediamo il testo rivelato. Egli è stato sottratto al complotto omicida della classe dirigente israelita da Allah, il quale, dopo aver creato un simulacro di lui e averlo messo al suo posto, lo ha fatto ascendere miracolosamente vivo a sé, mentre il simulacro è stato crocifisso dagli artefici del complotto omicida, i quali credettero di averlo ucciso crocifiggendolo. In realtà non hanno ucciso lui crocifiggendo il simulacro, ma ne hanno avuto l'illusione. Egli tornerà sulla terra e il suo ritorno sarà uno dei segni principali dell'imminenza della fine del mondo. Sconfiggerà il falso Messia e i suoi seguaci, instaurando un regno di giustizia e di pace. I cristiani e gli ebrei seguaci del giudaismo, al suo ritorno in terra, si convertiranno tutti all'Islam, sicché sarà abolita la tassa coranica per i non musulmani e, conseguentemente, per effetto delle massicce conversioni all'Islam, cesseranno l'allevamento dei suini e l'adorazione della croce. Alla sua morte sarà sepolto vicino alla tomba del profeta a Medina e dopo la resurrezione sarà nella vita futura uno degli approssimati ad Allah. È vero o non è vero che tutte le religioni portano a Dio? Non è vero. A Dio, Allah, porta soltanto l'obbedienza al codice di vita, le cui norme si trovano nel sublime Corano, che è la parola di Allah, e nei precetti del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, come espressione nel comportamento della visione dell'uomo, della vita e del mondo che si trova nel sublime Corano e nell'insegnamento del profeta, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria. Chi è il padre di Gesù? Gesù, che nel sublime Corano viene chiamato, come si è detto, il Messia Isa, figlio di Maria, non ha padre, in quanto è stato concepito per effetto della parola creante di Allah. Gesù è come Adamo, che Allah creò non solo senza padre, ma anche senza madre. Chi è Allah? Allah, rifulga lo splendore della sua luce, è l'ente che crea l'esistente, esistente costituito dall'uomo e da tutto ciò che uomo non è. Qual è la differenza tra ente, Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e esistente, universo visibile e invisibile? La differenza è che l'esistente ha un inizio e una fine nel tempo e un limite nello spazio, mentre l'ente, che è il creatore del tempo e dello spazio, non ha limiti di tempo e di spazio, ma è eterno e infinito. Qual è la fonte di queste informazioni? La fonte di queste informazioni è Allah stesso, sia gloria a Lui l'Altissimo. L'uomo non avrebbe mai potuto formulare questi pensieri, in quanto le realtà che sono oggetto di questi pensieri non sono alla portata dell'esperienza umana. La conoscenza della vera natura della divinità e della vera condizione umana non hanno altra fonte che la rivelazione divina, in quanto solo una divinità potrebbe parlare di una divinità, ma essendo Allah l'Altissimo l'unico titolare della qualità divina, solo Lui può informarci di sé, ed essendo Lui l'Altissimo, il creatore dell'uomo, solo Lui può informarci in modo oggettivo sulla condizione umana, sul perché viviamo, sulla qualità del nostro destino, sul significato della nostra esistenza terrena, essendo assolutamente impensabile che una qualsiasi creatura possa saperne a proposito di qualsiasi realtà più di quanto ne sappia il creatore di quella realtà.